La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Eccoci qui all'appuntamento. Un saluto da Franco D'Assisti, la nostra ora di cinema settimanale, il weekend sul grande schermo. Una settimana densa di uscite. Pensate, sono ben 9 i film che arrivano a vario titolo e con distribuzioni variegate nelle sale cinematografiche italiane. Abbiamo dovuto ancora una volta fare delle scelte per consigliarvi dove spendere o non spendere i vostri 8 euro di cinema. Ma è una settimana importante anche per la presenza di una grande regista italiana documentarista che ritorna con un film che racconta i nostri ultimi 20 anni. La sentiremo, Giovanna Gagliardo, al telefono fra poco. Cominciamo subito invece a riepilogare i contenuti principali nei titoli di testa. Good morning, great Satan of America. How are you? I am fine, thank you. On behalf of the nation of Wadia, I am outraged at being banned from the Oscars by the Academy of Motion Pictures, Arts and Zionists. While I applaud the Academy for taking away my right to free speech, I warn you that if you do not lift your sanctions and give me my tickets back by 12 p.m. on Sunday, you will face unimaginable consequences. Ecco, ho voluto tenere questo speech originale inglese tratto dal film con cui apriamo la nostra trasmissione, Il Dittatore, di Larry Charles con Sacha Baron Cohen, perché sentire Sacha Baron Cohen che parla in questo inglese appunto vagamente arabeggiante come un dittatore medio orientale in questo film dà la misura, l'idea di quanto fuori posto come sempre sia questo straordinario personaggio che arriva nelle sale italiane con questo film di cui, guarda un po', si è parlato molto, perché lui chiaramente anche quando promuove i suoi film si presenta in situazioni che sono francamente ben oltre il limite, ma ci piace proprio per quello, perché supera di tanto il limite. Sacha Baron Cohen, un film che sul piano del film si dice in due parole, appunto dittatore capriccioso di un paese immaginario del Nord Africa che si circonda di un esercito di bellissime donne, ricorda nessuno, che si fa le sue olimpiadi e spara agli avversari per arrivare primo. Ecco, questo è un po' il genere, ma alle spalle stavolta, forse rispetto anche al passato più recente di Sacha Baron Cohen, spuntano le stigmate di un cinema e di un omaggio a uno dei più grandi, forse il più grande di sempre del cinema, Charlie Chaplin. C'è molto il senso moderno, ovviamente contemporaneo, della denuncia dei sistemi dittatoriali che con Il Grande Dittatore, ricorderete Charlie Chaplin che giocava col mappamondo vestito da Hitler, fece ai suoi tempi, però forse un tantino più colto. Ne parliamo con Boris Sollazzo, che è già qui con noi. Boris, ti è piaciuto questo Sacha Baron Cohen? Devo dire moltissimo, io non ero mai stato un suo fan. Tu parlavi di Charlie Chaplin, io farò inorridire i nostri ascoltatori e forse anche te dicendo che questo è Charlie Chaplin rifatto da Checco Zalone. Mio parere è la recensione più calzante del dittatore, che chiaramente prende un po' da Gheddafi, un po' da Saddam, mischia tutto quanto e racconta questo dittatore ovviamente maschilista, questo dittatore incline alle esecuzioni, diciamo, di massa, tra virgolette, anche se poi si scoprirà altro, incline all'incapacità di vedere oltre il proprio voluminoso naso. Il guaio per lui è che, andando in America per, come dire, dire la propria, per stabilire il proprio odio verso Israele e verso tutto il resto del mondo, si troverà dall'altra parte, cioè si troverà ad essere una persona normale, ad essere scambiato per un profugo di Wadia e finire nel posto peggiore per un dittatore medio orientale maschilista e cattivo, ovvero in una boutique equa e solidale tenuta da una femminista vegana. E la cosa più divertente è scoprire che con ogni probabilità una donna femminista e vegana può essere altrettanto assolutista quanto un dittatore medio orientale, e qui nasce tutta l'incredibile vena politicamente scorretta del nostro Sacha Baron Cohen, perché come Checco Zalone, facendo sembrare normale l'ignoranza, la stupidità, ci dimostra anche come il politicamente scorretto o il politicamente corretto siano pericolosi, fino al discorso finale, a mio parere geniale, che è un trattato politico vero e proprio su che cosa è stata l'America negli ultimi anni e su come ci siamo trovati noi ad affrontare in generale il discorso della democrazia in Occidente. Persino Sacha Baron Cohen è stato colpito dalla censura, perché in originale Megan Fox, che fa la escort, dice: non posso rimanere con te questa notte perché devo andare dal primo ministro italiano. Nel doppiaggio e nei sottotitoli messi dal distributore italiano si parla solo di altri primi ministri, insomma non si voleva creare alcun problema di identificazione. Mi è sembrato essere un po' troppo realisti del re, però insomma questa è una notizia e non la diamo. La rosa purpurea. L'hai visto bene, Hanson? Quello è il tuo uomo. Sai cosa devi fare? Sì. Sì? Su, spiegati meglio, campione. Devo solo comprare un po' di roba, che vuoi che sia. Non è mica il primo incarico, sono stato di pattuglia. Di pattuglia. Chissà quanti delinquenti hai arrestato. Non credere che sia una cosa facile, Hanson. Noi ti teniamo d'occhio, non ti preoccupare. E mi raccomando, niente arresti. Giocatela bene questa carta, ne va del nostro lavoro. Non fare l'esperto, ma non fare neanche lo sprovveduto, capito? Ok, ok. E ricordatelo, Hanson, niente arresti. Allora, lo avete sentito, vi abbiamo voluto far ascoltare in apertura di seconda parte della Rosa Purpurea questo breve estratto. Era il 1987, più o meno, quando negli Stati Uniti veniva proposta una nuova serie di telefilm intitolata 21 Jump Street. In Italia arrivò qualche anno dopo, su Italia 1, nell'89, con il titolo I quattro della scuola di polizia. Cosa c'è di particolare? Ebbene, intanto che la voce che avete sentito è quella del doppiatore di un giovanissimo Johnny Depp, che era già assurto agli onori delle cronache cinematografiche per qualche piccolo ruolo, ma che proprio da questo telefilm 21 Jump Street, diciamolo all'italiana, vide la sua consacrazione televisiva, una grandissima popolarità negli Stati Uniti e poi in tutto il mondo, da cui poi nacque la carriera di Johnny Depp, scusate se poco. E allora Johnny Depp recitava il ruolo di Tom Hanson, poliziotto in incognito in questa squadra che doveva intrufolarsi negli ambienti giovanili per prevenire o reprimere il crimine, appunto, a livello di giovani. È un telefilm che in Italia ebbe un certo successo, anche se non una popolarità esagerata, non è stato molto riproposto. Adesso però tutto questo diventa un film, un nuovo film che è nelle sale italiane da questo fine settimana e che vede come protagonisti nei ruoli principali Jonah Hill e Channing Tatum, che sono due attori Molto importanti della loro generazione, una generazione giovane. Facciamo un paio di riferimenti per capire di chi stiamo parlando. Jonah Hill è il consulente di Brad Pitt in Moneyball, l'arte di vincere, film che è uscito all'inizio di questa stagione, ambientato nel mondo del baseball. È vero, il ragazzo corpulento, un po' nerd, che poi però svolta con le sue statistiche la carriera appunto dell'allenatore, del manager Brad Pitt. E invece Channing Tatum, protagonista assoluto di The Eagle, il film tutto ambientato all'epoca delle legioni romane in Britannia. Ecco, sono due attori importanti che qui si mettono alla prova con un comico demenziale che è appunto questo 21 Jump Street. È un po' la cifra che i registi hanno voluto dare a questo film. Il telefilm non era proprio in questa direzione, era sicuramente divertente, era sicuramente una commedia, ma non era proprio in questa direzione. Invece questa volta gli autori, che già erano stati alle spalle di un film, lo ricorderete come Piovono Polpette, hanno deciso, appunto, Philip Lord e Christopher Miller, di puntare forte sul piano del nonsense, della comicità anche un po' becera, ma la coppia funziona abbastanza. Allora entriamo un po' nel clima di questo nuovo 21 Jump Street con il trailer originale. Preparati per una vita da uomini duri. Oh, sono pronto. Credevo che avremmo avuto più inseguimenti e sparatorie. Abbiamo fatto il primo arresto. Sì! Vi siete dimenticati di leggergli i suoi diritti. Voi due siete ufficialmente trasferiti. Dove faremo rapporto? Al 21 di Jump Street. Voi siete qui solo perché somigliate a Justin Bieber e a Miley Cyrus, chiaro? Vi muoverete sotto copertura come studenti del liceo. Te lo sei bispallizzato? Non possiamo sembrare sfigati il primo giorno di scuola. Ti senti un esperto? Io ero un fico al liceo, tu no. Vero? La storia è presto detta, commedia d'azione, due giovani poliziotti, Schmid e Jenko, in passato uno un po' sfigato a scuola, l'altro il figo della situazione, si ritrovano appunto alla scuola di polizia, vengono aggregati a una squadra nella quale sperano di fare mirabilia, invece vanno in giro in bicicletta per i parchi a evitare i falò dei visitatori, fino a quando non compiono il loro primo arresto. Lo compiono in maniera un po' maldestra, vengono inseriti in questa squadra, in questa chiesa sconsacrata che funge da quartier generale, appunto situata in Jump Street al 21, e da lì, con un boss che è niente meno che Ice Cube, cominciano le loro scorribande. Devono infiltrarsi dentro un college per prevenire crimini legati soprattutto al traffico di droghe. Chiaramente il giovane e baldo Channing Tatum sarà l'adone e quindi farà innamorare e si innamorerà e penserà molto all'aspetto femminile di quel college. L'altro, il nerd Jonah Hill, sarà più impegnato, ma anche lui finirà a un certo punto per scoprire il sentimento. Divertente, perché nel finale di questo film spunta fuori in incognito, e tra l'altro non accreditato nei crediti originali, ancora Johnny Depp, che fa un po' il se stesso di qualche anno dopo, lanciato appunto da questa serie. Un film al quale non si chiede ovviamente nulla in termini di qualità, di scrittura o chissà cosa, però un film che strappa qualche risata, qualche battuta divertente, e soprattutto che può riallacciare il filo della nostalgia con il passato, con quella serie che fu e che in Italia appunto non ebbe tantissima circolazione, ma che sicuramente ha un merito nella storia del cinema, quella di avere lanciato la carriera di un divo appunto contemporaneo come Johnny Depp. Questo è 21 Jump Street nei cinema italiani. Adesso noi apriamo la prima finestra sul game di questa settimana e andiamo a sentire la prima traccia misteriosa di oggi. Signore mio, perdonami, ma quella io l'ammazzo, Aybelline. Sai che su ogni pezzo della mia carta igienica ci mette i numeri? Davvero? Ma io me la porto da casa mia la carta igienica. La scema non lo sa. E allora la rosa purpurea @radio24.it è l'indirizzo di posta elettronica per dirci di che film si tratta e provare a vincere il Blu-ray di questo film. Ovviamente c'è in palio una copia per il più veloce del sabato e della domenica, che ci darà la risposta esatta. Più tardi ci saranno però altre due possibilità. Andiamo avanti velocemente, molto, molto materiale, molta carne al fuoco in questa settimana con tante uscite. Ritroviamo il nostro Boris Sollazzo. Boris, ti è piaciuto 21 Jump Street? Hai riso? Anche il critico più feroce ha riso? Ma io ho riso parecchio, ho scoperto che vicino a Jonah Hill può far ridere persino il buon Channing Tatum, che fino adesso sembrava solo un bel pezzo di manzo, per dirla in un gergo molto giovanile. E, no, devo dire, insomma, un giocherello, cioè, chiaramente non un capolavoro, ma assolutamente divertente. Assolutamente, anche... non ho di che lamentare. Anche molto, molto scorretto in tanti momenti, il che secondo me ne fa comunque un prodotto godibile. Andiamo avanti, dicevamo, abbiamo un altro film che è stato presentato a Venezia da una figlia d'arte... perché alle spalle c'è un signore che si chiama Michael Mann, presenta, quindi produce, ci mette la sua regia mentale, ma quella cinematografica è di Amy Karan Mann, dicevamo appunto un cognome, un destino. Texas Killing Fields, Le paludi della morte, ascoltiamo il trailer, poi ne parliamo. Ciao Brian, sono Pam. Da noi abbiamo una ragazza scomparsa. Abbiamo localizzato la sua auto. Si trova nelle paludi. Ma se è nelle paludi, è già andata sicuro. Brian, polizia di Texas City. Abbiamo un omicidio anche qui da noi. Mai visto questa ragazza? Bionda. Donna, capelli scuri. Questi siamo noi. Texas City. Le paludi. Non è la nostra giurisdizione. Vi chiamava dalle paludi. I locali lì non ci vanno. Sono infette o chissà che. 911, qual è la sua emergenza? Aiutatemi, un uomo è entrato in casa. No, ti prego, no! Ispirato a vicende vere, tra l'altro che ebbero come protagonista nelle investigazioni l'ex poliziotto che poi è diventato il consulente di Michael Mann proprio per tutti i suoi polizieschi, ambientato alla periferia di una cittadina chiamata appunto Texas City, 30 minuti a sud di Houston, dove sono state trovate, pensate, negli anni ben 60, i corpi di 60 vittime di omicidio, molte donne, ragazze violentate, prostitute, studentesse, comunque vittime di assassini diversi, e tutte buttate in queste paludi definite appunto Texas Killing Fields. Un film che chiaramente è un film poliziesco, un noir, la storia di questi poliziotti che indagano su queste sparizioni e che piano piano vengono un po' tirate dentro una sorta di gioco del gatto col topo dall'assassino. Un film che è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Boris, ebbi qualche perplessità all'epoca, mi dissi forse che il nepotismo non esiste solo in Italia, non che il film tradisca particolarmente, ma non mi sembrava tutto sommato un prodotto adatto alla Mostra del Cinema di Venezia. Va oltre i cliché, secondo te? Va oltre i canoni del genere? Non credo, onestamente, non va neanche oltre i canoni del padre Michael, perché si sforza, lei sì, forse di essere un po' più cattiva del genitore, che comunque qui fa il produttore, ed è un produttore, a mio parere, almeno visto lo stile del film, anche piuttosto invadente. E alla fine il film non si può dire che sia brutto, per carità, perché diciamo che ha tutte le cose al posto giusto, ha due buoni protagonisti come Sam Worthington e Jeffrey Dean Morgan, che anzi qui è più bravo del solito, non è solo il sosia di Javier Bardem per la parte superiore del viso e di Robert Downey Jr. per quella inferiore, e alla fine insomma se lo porta a casa un noir. Che fosse fatto da chiunque altro probabilmente strapperebbe anche la sufficienza, così ci sembra un po' già visto, ci sembra che non ci sia nulla di nuovo. Di sicuro Amy, forse proprio per marcare la differenza, è ancora più cattiva, più pesante nelle immagini di violenza del padre, ma questo non mi sembra onestamente un pregio, perché la forza del padre è proprio in un film come Collateral, in cui la violenza esposta non è tantissima, eppure la senti in ogni frammento, in ogni fotogramma. Quindi devo dire, rimandata a settembre, ecco, se possiamo dirla così. Eccoci qui ancora insieme alla Rosa Purpurea, è la terza parte del nostro programma e noi continuiamo a raccontarvi I film più importanti, secondo noi più consigliabili di questo fine settimana al cinema. C'era una volta in Anatolia, così cominciano le favole, un film passato al Festival di Cannes dello scorso anno, Once Upon a Time in Anatolia, un film che ha vinto molti premi, è stato riconosciuto come uno dei anche in questo caso dei noir a suo modo, dei noir di investigazione più originali che si siano visti. Arriva dalla Turchia, lo firma uno degli autori più importanti del panorama contemporaneo come Nuri Bilge Ceylan. Noi andiamo a sentire il trailer e poi ne parliamo con Boris Sollazzo. Potrà dire: una volta in Anatolia, quando lavoravo in un paesino sperduto, ho passato una notte veramente particolare. È strano che uno come lui abbia una figlia così bella. Sembra un angelo. Le belle hanno sempre un brutto destino, dottore. Alla fine tutti scontano le loro pene. I figli invece scontano i peccati dei padri. Dottore, una persona può decidere di suicidarsi per punire un'altra persona. È possibile? Le donne non perdonano così facilmente, signor procuratore. E allora, il clima lo avete sentito, le immagini sono tutte da vedere. C'era una volta in Anatolia un poliziesco, dicevamo a suo modo, Boris, un film che però racconta con il pretesto del genere qualcosa che sembra visto attraverso una sorta di lente sfocata. Cioè l'idea è quella di rendere anche la storia, l'anima di un territorio attraverso un racconto che non sia veramente troppo realistico. Ma il film secondo me va giudicato su due binari: il binario della regia, il binario del talento visivo di Nuri Bilge Ceylan, che è pazzesco, cioè uno che con la macchina da presa può fare quello che vuole, lo si vede anche in un momento di leziosità assoluta quando cade una mela e lui segue quella mela e la fa diventare secondi interessanti, nonostante chiaramente non ci sia nulla di particolare. Il problema, secondo me, di Bilge Ceylan è quello che hanno tanti che sono molto bravi con la macchina da presa, che si dimenticano un po' il film. E qua abbiamo per le mani un noir anche molto interessante, con questi attori che fanno appunto il giudice e il medico, su cui gira tutto attorno la storia, insomma, sia quella poliziesca sia quella umana, perché si confrontano sui grandi temi della vita e nel frattempo si confrontano anche sul caso di un cadavere da ritrovare, di un colpevole da accusare. Chiaramente tutto è come dovrebbe essere, tutto invece alla fine si dimostra essere al contrario. Il punto è che questo si dipana in quasi 160 minuti. Potrebbe tranquillamente durare un'ora in meno. Ceylan chiaramente lo fa perché il suo talento visivo glielo concede. A mio parere, però, un film che poteva essere un capolavoro, sia come contenuti, sia come capacità immaginifica, diventa invece un film che purtroppo alterna momenti di straordinaria bellezza a momenti di noia clamorosa. E questo, a mio parere, è cinema. Anche un'industria di intrattenimento e non solo un'arte diventa, proprio per questa natura spuria di quest'arte, diventa un difetto che secondo me nasce proprio dalla eccessiva volontà di specchiarsi del regista. Quindi un film assolutamente interessante, ma mi sembra anche una grande occasione persa. E questo era C'era una volta in Anatolia, tra l'altro quarto film che il regista turco porta in concorso a Cannes su sei che ne ha fatti. C'è una certa attrazione, diciamo, evidentemente tra le due parti. Grazie Boris, appuntamento alla prossima settimana, ovviamente, con le novità in sala. Alla prossima settimana. Ebbene, siamo arrivati allora a questo punto, dobbiamo parlare di un altro film, fra poco con noi Giovanna Gagliardo per raccontarci 20 anni, ma dicevo, siamo arrivati alla seconda traccia misteriosa del DVD Game di oggi. A quelle importa solo essere pagate. Lo capirai quando assumerai del personale anche tu. Lei mi ha cresciuta, mamma. Non dire sciocchezze. Ha lavorato qui 29 anni. È una storia di gente di colore ed è acqua passata. Qui c'è una traccia mica da ridere, per identificarlo. Tra l'altro, film che in Italia ha avuto poca circolazione e anche, a mio modo di vedere, scarsamente azzeccata, ma un bellissimo film che ha avuto anche importanti nomination all'Oscar. La Rosa Purpurea @radio24.it. Se avete indovinato di che film si tratta, scriveteci titolo e vostro indirizzo per provare a vincere il Blu-ray. Più tardi ci sarà l'ultima possibilità. E benissimo, allora adesso parliamo dell'ultimo film di cui vi vogliamo parlare questa settimana. Abbiamo detto in apertura, torna una regista, una documentarista italiana che ci ha regalato in passato opere molto molto importanti. Lo rifà questa volta con una riflessione molto interessante che si intitola 20 anni, senza apostrofo, con il 20 per intero. Saluto al telefono Giovanna Gagliardo. Buongiorno. Buonasera, come va? Tutto bene, tutto ecco bene. Lei, reduce da questa nuova fatica che arriva in sala. Partiamo subito da qui, perché oggi per i documentari c'è un grande fermento festivaliero, un grande interesse da parte del pubblico, anche della televisione, che grazie ai canali satellitari o del digitale terrestre ha ritrovato entusiasmo. Portare un documentario al cinema è sempre un po' una sfida. È una sfida intanto dal punto di vista tecnico, perché quasi sempre, anzi sempre ormai, i documentari si girano in digitale, non più in pellicola, per ragioni di agilità e di risparmio. E dopodiché le sale che sono invece disponibili, che hanno le proiezioni in digitale, sono pochissime in Italia. E infatti, questo è un po' un problema. Però parliamo un po' di questo 20 anni. Giovanna Gagliardo prende le mosse da una notte che penso sia la notte più simbolica della nostra contemporaneità, ovvero la notte in cui nel 1989 cade il muro di Berlino. Si comincia da lì, da quelle scene di entusiasmo, si sente che una nuova vita potrebbe nascere, si incrociano gli sguardi di un paio di protagonisti, ritroviamo quei protagonisti nel nostro oggi, un po' come una sorta di resa dei conti. Come sono questi conti per lei, Giovanna Gagliardo? Cioè, la summa di questi 20 anni alla fine qual è? Dunque, di questi 20 anni, come diceva lei, senza l'apostrofo, la summa di questi anni è molto molto problematica. Diciamo che infatti il mio documentario comincia in quella notte, come dice lei, dove tutti fanno festa, dove si apre il mondo, si allarga il mondo libero, no? In qualche misura, e nell'arco di 20 anni questa attesa, questa speranza, questo desiderio di una libertà più diffusa e più grande vengono mano a mano, anno dopo anno, frustrati e umiliati. Tant'è vero che il film apre e chiude con il fallimento di Lehman Brothers a New York nel settembre del 2008. Vale a dire che questo mondo libero ha saputo usare bene la libertà che gli è caduta dal cielo, che gli è piovuta in mano? Ecco, forse no. Questo è un po' il tema del film. Forse questa libertà non è stata usata nel modo giusto, nel modo migliore. E su questo, diciamo, il film, che è ovviamente volutamente un film a tesi, si interroga. Ecco, un film che sente anche voci importanti di artisti, certo, di intellettuali, insieme a questa coppia che noi ritroviamo dal muro di Berlino ai giorni nostri a Roma, con le proprie attività, con i propri successi e i propri fallimenti. Ci sono anche voci da coro greco, diciamo così, che fanno un po' da contraltare. Faccio qualche nome, da professori di grande lignaggio come Guido Rossi, ad artisti come Michelangelo Pistoletto, a economisti come Jean-Paul Fitoussi. Che ruolo hanno questi personaggi e soprattutto che tipo di apporto danno al film? Secondo me danno un grande apporto, proprio perché, essendo questi anni molto recenti e nei quali siamo ciecamente e brutalmente ancora oggi buttati, è difficile leggere il perché di tante cose, perché tante cose non sono successe, avrebbero potuto succedere o che cosa avrebbe dovuto succedere. Ecco, allora attraverso la storia privata, diciamo, di quella coppia mi sembrava insufficiente a dare una risposta, e allora abbiamo pensato appunto di fare questa specie di simposium, visto che lei ha usato il termine coro greco, mi associo, simposium finale per cercare evitare voce a chi è molto più intelligente ed esperto di noi, per cercare di interpretare questi 20 anni, cercare di dare una risposta a tutti perché che si fanno i nostri due protagonisti. Giovanna Gagliardo, una piccola e rapida conclusione riguardo invece alla sua carriera di regista di film di finzione. Io conobbi Giovanna Gagliardo nel 1990, lo ricordo benissimo, a Milano per Caldo Soffocante, con Ennio Fantastichini, con Gabriele Ferzetti, e mi sembra quello sia l'ultimo film di finzione che lei ha realizzato. Abbiamo detto prima, è difficile portare un documentario in sala, è ancora più difficile oggi forse fare un film di finzione ancora prima di portarlo in sala. Assolutamente, infatti non è che io faccio la documentarista per ripiego, però mi sono trovata, come dire, questa professione parallela, che peraltro mi piace moltissimo, dove è chiaro che il costo di un documentario è sempre mille volte inferiore a quello di un film, dunque uno si muove più agilmente, più liberamente. Fare un film in Italia oggi significa lavorare qualche anno nell'incertezza più assoluta di riuscire a farlo. E quindi è molto molto complicato, soprattutto i film che io vorrei fare, che sono sempre molto più cari delle disponibilità del mercato. E questo è un classico, quindi... però effettivamente diciamo così, però... bisogna un po' arrangiarsi. Grazie Giovanna Gagliardo, io ricordo che 20 anni è in distribuzione nelle principali città già da questo fine settimana, Cinema Apollo di Milano, Quattro Fontane di Roma, ma poi anche a Bologna, Firenze, quindi insomma il pubblico delle grandi città può sicuramente andarlo a vedere. Grazie ancora Giovanna Gagliardo. Grazie a voi, buon lavoro. La rosa purpurea. Io non li accetterò mai, i vostri sporchi soldi rubati. Va bene. E allora sono cavoli tuoi, sorella. Scusa, figliolo, che cosa hai detto? Le ho offerto il mio aiuto. Lei ha rifiutato di accettare i nostri soldi. Mm. E io ho detto... E allora sono cavoli tuoi, sorella. E Cristo, sta attento a come parli. Ma santo Dio! Ferma! Ma puttano! Dan Aykroyd e John Belushi che le prendono di santa ragione dalla suora perché sono sboccacciati, aprono la quarta parte della Rosa Purpurea destinata e dedicata come sempre a Long Video, però volevamo farvi sentire questa clip perché? Perché c'è una notizia da dare: il 20 e 21 giugno torna al cinema il capolavoro di comicità, di grande musica che è The Blues Brothers di John Landis con Dan Aykroyd e John Belushi nella versione in alta definizione digitale restaurata, quindi insomma guardate un po' quali sono i cinema che il 20 e 21 giugno, prossima settimana, faranno questo film, perché rivederlo sul grande schermo nello splendore, forse anche superiore a quello della prima pellicola, è davvero una grande grande occasione. Parliamo, dicevamo, di Home Video, come sempre lo facciamo cominciando dalle segnalazioni della settimana in televisione, i film in TV, i grandi film in TV, e allora niente di meglio che Film TV, il settimanale diretto da Aldo Fittante, per raccontarci, fare delle scelte sui palinsesti della prossima settimana, ed è con noi per questo Giulio San Giorgio, che saluto. Ciao Giulio. Ciao Franco e ben ritrovati con le nostre segnalazioni. Due scelte come sempre abbastanza distanti tra di loro, ma ci piace premiare e consigliare il cinema migliore a prescindere dalle sue provenienze e dai suoi generi. Cominciamo con La Combe Lucienne, capolavoro di Resistenza di Louis Malle. Di 18 giugno alle 9.50 del mattino su Rai Movie, cognome nome La Combe Lucienne. Siamo nella Francia occupata del 1944 e il contadino Lucien tenta di entrare nel movimento di resistenza. Non essendo accettato, diventa un collaborazionista. Uno dei più grandi film di Louis Malle, dove lo scavo storico si riflette nel ritratto di un protagonista immaturo che agisce per pulsioni primitive e incapace assolutamente di distinguere tra bene e male. E Malle guarda questo protagonista con grandissima pietà umana. E allora questo è Cognome Nome La Combe Lucienne, ricordiamo l'appuntamento lunedì 18 giugno Rai Movie alle 9.50 del mattino. E invece si va in pieno ritmo di grande azione con L'Anno del Dragone di Michael Cimino. Esattamente, giovedì 21 giugno su Iris alle 21.10 L'Anno del Dragone. C'è un patto di non aggressione tra la polizia e gli anziani di una comunità di Chinatown, ma quando arriva il poliziotto Stanley White le cose cambiano decisamente. un cimino della violenza iperrealista con sequenze furibonde, pieno di scandali, in questa immagine assolutamente violenta del melting pot americano, con dove c'è una tensione alle stelle, i protagonisti sono coinvolti in torbide passioni e duelli all'ultimo sangue, un cimino assolutamente con tutti i sacricrismi del caso a 5 anni dal flop dei Castelli del Cielo. Flop che però era, come lo ricordiamo sempre, era comunque un flop commerciale, perché il film invece è un capolavoro assoluto. Allora, grazie a Giulio San Giorgio, appuntamento la prossima settimana con i consigli di Film TV. Ciao Franco e alla prossima settimana con le nostre segnalazioni. Ebbene, allora prendiamoci l'ultima pausa che riguarda il game e facciamo ascoltare la terza traccia di oggi. Io scriverei qualcosa dal punto di vista delle cameriere. Queste donne di colore crescono i bambini bianchi e dopo 20 anni quei bambini diventano i loro padroni. Noi le amiamo e loro ci amano, ma non possono neanche usare il bagno in casa nostra. Non lo trova assurdo, Miss Stein? Si parla di tempi e di situazioni davvero al limite. La rosa purpurea a @radio24.it. Di che film si tratta? Scriveteci anche il vostro indirizzo per provare a vincere il Blu-ray di questo film. Il sabato e la domenica ce n'è uno in palio per l'ascoltatore più bravo e più veloce. 7 giorni fa, invece, 7 giorni fa avevamo ascoltato questa clip. Mamma, ti metto in mezzo, sono cose nostre. Che stai parlando? Devi andare a scuola, amore. Cazzo, flasciato. 5 minuti ma. È tardi. Scialla in 3 minuti. Si parlava di Scialla, era questo il film della scorsa settimana, una delle commedie più riuscite, divertenti e anche capaci di fotografare un aspetto di una generazione di quelle che sono uscite appunto quest'anno, presentato al Festival di Venezia lo scorso anno. I più bravi e veloci fra gli ascoltatori che vinceranno questo film sono Maria Cattarelli di Botticino Sera, provincia di Brescia, e Michele Pinto di Senigallia. A loro arriverà appunto Scialla, che noi recensiamo. Siamo così invece col nostro Claudio Pofi, che è già in collegamento con noi. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Allora, l'edizione da parte di 01 Rai Cinema di Scialla è una versione che noi abbiamo potuto vedere in alta definizione, veramente notevole. Una qualità a livello di immagine da resa cinematografica e per quanto riguarda l'audio non è da meno, perché abbiamo una traccia DTS ad alta risoluzione. Come extra abbiamo un approfondimento sulla lavorazione. E questo allora Scialla nelle videoteche a disposizione. Andiamo a dare un'occhiata alle recensioni, alle novità in un video, e cosa troviamo? Un altro film che arriva proprio dall'ultima mostra del cinema di Venezia, in cui si era fatto apprezzare per le innegabili qualità artistiche, ma anche per le doti, diciamo così, naturali del suo protagonista Michael Fassbender. Stiamo parlando di Shame. Non ho un altro posto dove andare. Avanti, mi dici che stronzata è? Sei mio fratello. E allora? Sono responsabile per te? Sì. No, non è così. Sì che lo sei, cazzo. No, tu non sei mia figlia, non ti ho messo io al mondo. Sei mio fratello, sono tua sorella, siamo una famiglia, dobbiamo occuparci l'uno dell'altra. Tu non ti occupi di me, perché io so badare a me stesso. Io sto provando ad aiutarti. E come mi aiuti, eh? Com'è che mi aiuti? Come cazzo mi aiuti? In una New York fredda e distaccata, Brandon è un trentenne benestante di successo che sfrutta il proprio fascino unicamente per stabilire rapporti fugaci, per lo più con l'universo femminile. Sesso, usa e getta, in fuga dalla realtà e dall'inadeguatezza del proprio essere nei confronti del mondo. Tutto si complicherà una volta che nell'appartamento di Brandon si stabilisce la sorella, spiantata cantante, sorta di negativo del fratello dipendente, dai legami affettivi incapace di accettare i toni distanti e il rifiuto di dialogo da parte di Brandon. La regista Steve McQueen è un racconto forte e intenso in una rara analisi del tema della dipendenza dal sesso dal punto di vista maschile, raccontando con un linguaggio elegante perversione e sfogo le pulsioni quale esorcismo all'apatia di vivere. Da Pink Media l'edizione On Video, di cui consigliamo la versione Blu-ray alta definizione per un risultato da sala cinema. C'è una doppia traccia di DTS alta risoluzione italiano e inglese, sono entrambe di ottima resa. Tra gli extra segnaliamo breve intervista al regista e all'attore principale Michael Fassbender, ma all'interno della confezione è presente un approfondimento testuale sul film. E allora invece un'altra recensione, un altro clima invece in questo film remake di un film televisivo che si intitola Non avere paura del buio. Chi siete? Come siete fatti? Rinchiusi qui da tanto tempo, liberaci. E ora vieni a vedere come si sta qua giù. Aspettate solo un attimo. Ci sono altri bambini qua giù. Sarà proprio introversa e solitaria, Sally è una bambina con difficoltà a metabolizzare la separazione dei genitori, costretta a spostarsi in continuazione fino al momento in cui non raggiunge il padre fidanzato con una giovane donna. La coppia ha stabilito la propria dimora presso un inquietante maniero. Per nulla seguita, Sally scoprirà nel seminterrato un luogo che è in realtà prigione di antiche creature che, forti solo nell'oscurità, le daranno la caccia. Da Guillermo del Toro un horror d'atmosfera di dignitoso spessore, popolato da elementi di terrore che intrecciano il destino col mondo dell'infanzia, tema ampiamente sfruttato che lascia solo immaginare quale avrebbe potuto essere il risultato se la regia ci fosse stato regista messicano o qui in veste di produttore al posto dell'esordiente fumettista Troy Nixie. Dalla Key Red l'edizione un video DVD e Blu-ray, come sempre il consiglio è quello di sfruttare la versione alta definizione per una resa ottimale. Per l'audio, oltre alla doppia traccia Dolby Digital multicanale italiano e inglese, è presente anche una terza DTS ad alta risoluzione in italiano di eccellente resa. Per gli extra segnaliamo un breve making of, interviste regista, cast e produttore, e soprattutto molto importante l'incontro con Guillermo del Toro. E questo è Non avere paura del buio, ennesima variazione sul tema della casa maledetta. Grazie a Claudio Pofi, appuntamento la prossima settimana. Ciao, a presto. E noi siamo arrivati alla fine della nostra puntata, non ci resta che salutare e ringraziare in redazione Giorgio De Luca e regia Peter Bescapè, darvi appuntamento alla prossima settimana qui il sabato alle 18 e la domenica alle 15 per chi ci ascolta in replica alla Rosa Purpurea, a tutto il cinema che c'è qui su Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi.